tutti, vi faccio sedere così. Grazie. Intanto grazie di essere qui questa sera a questa preapertura del Centro Magno. Che cos'è il Centro Magno? Oggi ho risposto a tantissimi di questa domanda. Allora, questo è il luogo in cui vi trovate, è un'ex scuola. Forse qualcuno di voi si ricorda la scuola che fino a qualche anno fa, già saranno una decina d'anni, non c'è più il liceo Vario. Tra l'altro qui abbiamo anche il presidente della Stella Maris, che poi è la proprietà diciamo dello spazio, che saluto il signor Bruno, che gentilmente è venuto qui oggi quindi a questa prima apertura ufficiale al pubblico. Il Magno ha già iniziato a farsi sentire o vedere, ma per poche persone. Quindi incontri a porte chiuse, performance a porte chiuse, per cominciare anche ad avere un po' di materiale d'arte contemporanea e multimediale all'interno dello spazio. Il Magno, quindi, che sta per arte multimediale per il terzo millennio, è uno spazio che vuole essere dinamico, quindi non un vero e proprio museo, ma un centro dove si fa arte, si produce, si promuove. Dico si produce perché presto verrà aperta anche la residenza d'artista. La nostra idea è quella di invitare gli artisti da ovunque, dal mondo intero, a venire a Genova, fermarsi nella nostra bellissima città, qui abbiamo, come vedete, con un panorama meraviglioso, siamo di fronte al terminal delle grandi navi, e realizzare un'opera che quindi nasce a Genova e che poi andrà ad aggiungersi nella collezione del Centro Magno. Vuole essere un luogo dove si fa anche formazione, perché no? Comunque non è così scontato che, voglio dire, conoscere la tecnologia immediatamente ti porta a dire so fare questo piuttosto che l'altro. Ecco, noi parleremo di arte e tecnologia, arte, scienza, arte, ambiente, tutti argomenti che comunque sono necessari forse tutto sommato oggi, anche perché negli ultimi anni ci hanno abituato c'è stata un'accelerazione incredibile con l'utilizzo del mezzo tecnologico, però sempre importante avere qua, quindi la tecnologia sì, ma il contatto con le persone che possono fruire l'arte in uno spazio fisico, che comunque è alla base del mio lavoro anche con Eteria, la galleria, che poi prossimamente sarà qui anche la galleria. Quindi a fare arte multimediale, ma avere uno spazio fisico in cui fruirla, perché è indispensabile. Quindi il fruitore, il visitatore, parte integrante di tutta l'operazione del progetto. A fare tutto questo non sarò da sola, naturalmente ci sono un gruppo di persone che collaborano con me e spero che altre arriveranno, perché come dicevo prima al signore qui davanti, non voglio assolutamente lavorare da sola, perché non ce la posso fare. Abbiamo un programma già molto interessante, l'apertura ufficiale, diciamo, della prima mostra, che non posso svelare in questo momento, sarà il 12 ottobre, e però da qui al 12 sono tanti diciamo, i vari eventi, gli eventi che vi sono stati proposti, che stiamo appunto valutando, soprattutto legati all'arte performativa. Qui c'è Rossini e Tredolani, che tra l'altro parlando di grandi collaboratori con me, lavoreranno proprio sul programma. programma dell'arte performativa, quindi della performance art, e poi ce n'è uno lì in fondo che adesso ci raggiungerà, che è Bonelli Federico, che chiamo qui, che è tutta colpa sua, quello che sta in anticipo, facciamo, cominciamo subito, immediatamente, perché dice dobbiamo assolutamente far vedere che questo spazio c'è e dobbiamo attivarlo più presto, e anche il titolo di questa rassegna è colpa sua, questo spazio è già pieno, quindi perché era pieno. C'è ancora posto per tante altre cose. Ti lascio questo spazio pieno perché spieghiamo anche stamattina, basta guardare fuori dalla finestra e si vede la città, è uno spazio che ha già la città dentro, il movimento delle macchine, delle navi, e non solo dal punto di vista di un artista multimediale, pieno anche di informazioni. I vostri telefoni stanno comunicando con le loro cose, controllo i vostri orologi digitali, continuano a chiedere se c'è un tutto acceso, le onde elettromagnetiche da fuori, la radio, il citofono, tutte queste informazioni fanno parte di un mondo che non si vede, l'umano non riesce a percepire. E una delle cose interessanti, pensiamo noi, dell'arte contemporanea è interagire, rendere visibile, portare alla conoscenza e alla nostra sensibilità anche questo genere di informazioni. Questa informazione non è volutamente data, ma è anche ovviamente significata, porta anche dei significati che sono addirittura oramai legati all'azione, cioè un'intelligenza artificiale che fa partire un drone, che fa partire un missile, oppure una cosa più carina, un mazzo di fiori, diciamo l'intelligenza artificiale può decidere al posto nostro che la nostra fidanzata di prima bisogna un mazzo di fiori e poi magari si sposavano due giorni. Insomma, possono succedere delle cose e parte quella mondiale che piace anche, e quindi questo è il motivo per cui lo spazio è già vuoto, ma è già pieno. E tra l'altro è anche in buona pace di Peter Blum, che ci ha insegnato, grande teatrante, che ci ha insegnato che la cosa più bella di dare un artista è uno spazio vuoto. E allora questo spazio che quando abbiamo cantato la rassegna era vuoto, è già pieno. Prima vi espongo il programma di questa prima rassegna, perché comunque oggi inizia la rassegna e chiude il 22 di sabato, giusto? Partiremo con la presentazione e chiamerei qua Jan Kuhn, prego. Perché ci abbiamo fatto un grande regalo. Oltre al regalo, parli di nostri performer che comunque mi hanno permesso di avere le prime opere in collezione, che sono opere multimediali, abbiamo anche un'opera fisica già in collezione, ed è il Time Matters che avete visto all'ingresso dello spazio, donato appunto da Jan Kuhn. È un'opera alla quale tengo tantissimo, perché come dicevo anche stamattina è nelle mie mani da diversi mesi, più di un anno, perché è stata già esposta qui a Genova a Palazzo Ducale durante la chiusura del Covid. Era nel cortile del Ducale perché gli spazi erano chiusi, e questo Time Matters poteva invece quindi questa, insomma, sono particolarmente contenta di questo lavoro, ho curato molto bene, ho ottenuto molto, molto bene, perché sono sempre lavori molto delicati, e poi ci ha portato in mostra anche questo, che questo è un sogno un po' di tanti, no? Per cui tutti vogliamo essere degli artisti. E quindi questa tra l'altro è un'opera più recente, e mi diceva appunto Ian che è realizzata con il vetro di nostro vetro italiano, quello di Urano, sì. Quindi ha anche questa, questa particolarità. Per cui io ringrazio loro e ringrazio anche la delegazione del Institute che è qui con noi, che quindi ci supporta in questa operazione, in questa nostra apertura. Ancora grazie. E prima di passare la parola a Federico che vi presenta la filosofica di Anna, da il primo talk, voglio dire, di questa sera, vi ricordo che appunto poi domani ci sarà Federico stesso, che è qua, che ci parlerà sicuramente di argomenti abbastanza criticati ultimamente, che quella è l'argomento delle collettive, poi ci dirà lui un po' di più. Mentre il 19 ci raggiunge da Amsterdam Leo Erken, che è questo artista del quale potete vedere già in anticipo del suo lavoro della prima stanza, un lavoro veramente molto bello, molto interessante, ma è bello entrarci dentro, lui vi permetterà di entrare in questo suo mondo in bianco e nero attraverso un visore, e quindi io vi invito a venirlo a vedere dal vero quando c'è e entrare in questo viaggio con noi. Il 20 la presentazione di Ennio Bianco presenterà un film di Casalegno che è stato realizzato per il Teatro Verde della Fondazione Cini di Venezia. E poi chi altri? Ci abbiamo il workshop del 21 e il 22, anche questo molto, lui qui ha parlato di dati prima, quindi come trasformare, come rilevare questi dati e poi trasformarli in qualcosa di creativo, visivo, quello poi dipende da chi guida del corso. E poi la chiusura con una realtà genovese che ci ha portato appunto il tavolo, il TAVI, che è questo tavolo interattivo che vedete lì, gentilmente abbiamo, ci fa vedere come funziona, perché non è semplicissimo ma molto interessante questo lavoro. Tra l'altro il lavoro che vedete lì dentro è stato realizzato con la collaborazione di Michelangelo Pistoletto ed è un'opera di Michelangelo Pistoletto. Quindi ecco, questo è un riassunto, però diciamo che sui social e sul sito avete tutto il programma, non abbiamo stampato niente, siamo digitali, non sprechiamo carta in questo senso. Allora, lascio la parola a Federico che vi presenta. Ci siamo dimenticati di nominare il lavoro di quello che stavo bene, appunto mi sono ricordato di menzionare la loro nostra. Questa sera la rassegna prevede due persone che parlano voi della entrare quello che fanno. Io tengo moltissimo. La prima appunto è Tatiana Bazzichieri, che viene da Berlino, e ci conosciamo da tantissimi anni, non è mai un momento, e secondo me, quando parliamo di tecnologie, della sovrapposibilità, dobbiamo necessariamente parlare anche di tante altre cose, l'economia, magari attraverso il concetto di proprietà digitale, e quindi NFT, di società attraverso l'informazione che pervade la società, informazioni vere, informazioni false, informazioni che ci portano a pensare delle cose o delle altre, e in questo Tatiana è sicuramente un esempio enorme. conoscenza delle tecnologie, che cosa succede intorno. Quindi mi racconterà lei quello che fa, di Disruption Lab in Berlino e del suo lavoro. Troverete anche i suoi libri posti un po' in giro, sono tutti, lo spiega lei, sono anche liberamente fruibili tramite internet, sono edizioni, no? Perché hanno edizioni che possono essere lette supportando il suo lavoro, comprando oppure semplicemente scaricando se lo leggiamo. Quindi subito dopo da Tirana avremo un intervento che spiegherà il lavoro con i palestini del recupero della cultura informatica attraverso i suoi manufatti, quindi il recupero dei computer storici, e c'è il piano russo, il dottor che è la presenza, e anche lui e il Maim di Siracusa sono un'eccellenza italiana sconosciuta, fuori dai grossi circoli, quindi per me è un grosso onore averlo qui in questa mia impappinata presentazione. Vi prego di rimanere, sentite loro che parlano meglio di me e vi presento a questo punto. Tatiana, ti lascio. Le chambre, c'est à vous. Che era il cosiddetto Bulletin Board System, cioè quello che esisteva prima della tecnologia internet che ci immaginiamo oggi e che permetteva alle persone di connettersi con la rete attraverso un modem. E facevo parte anche di un altro gruppo sulla comunicazione che si chiamava Strano Network, che agiva principalmente a Firenze. In questo periodo noi ci occupavamo di diverse cose, non soltanto il discorso dell'alfabetizzazione tecnologica, perché era importante, non tutti avevano accesso a internet, cercavamo di dare accesso. In particolare io mi occupavo di, insieme ad altre persone, di far capire in che modo l'arte e la tecnologia si potevano unire e quindi come era possibile immaginare una forma artistica anche attraverso la rete. Quindi nel 2006 poi ho scritto un libro di cui parlerò che si chiama Networking, la rete come arte. Ma prima di quel periodo diciamo che tutti noi che facevamo parte di quella scena e non solo, abbiamo purtroppo vissuto nel 2001 una grandissima esperienza che voglio portare qui perché siamo nella città di Genova e vedete dietro di me quello che è successo alla cosiddetta scuola di IATS, che poi era in particolare il complesso della scuola da che univano soltanto il media center, dove c'erano tutti i vari giornalisti, collettivi che si occupavano di informazione indipendente come Indimedia, ma anche il dormitorio in cui poi molte persone sono state cosiddette massacrate dalla polizia. E voglio portare appunto questa storia perché penso che tutti voi la conoscete nella città di Genova. È stata veramente fondamentale per tanti di noi che comunque si sono ritrovati, volendo o non volendo, in una situazione molto violenta. Io in particolare, e qui racconto la mia esperienza, non ero a Genova ma ero a Firenze appunto con le persone del gruppo Strano Network e ci eravamo in collegamento con Radio Gatto, che era il circuito indipendente di diverse radio che avevano con la base al Media Center. E in particolare lì abbiamo vissuto da una piazza cittadina di Firenze il collegamento nel momento in cui la polizia è entrata dentro il Media Center e ha interrotto la comunicazione. Molti di voi sapete quello che è successo, tra l'altro forse non so se vuole essere nominato, ma nel pubblico c'è anche Carlo Bachmit che ha curato molto tutto il discorso dell'archivio, della segreteria legale e insomma diciamo che anche questo lavoro è stato molto importante non solo per il movimento ma anche per tutti i manifestanti che si trovavano lì, perché comunque ha permesso di dare giustizia per molti. E perché racconto questa storia? Perché questa esperienza ha fatto riflettere molto non soltanto me, ma tutto il movimento e tanti manifestanti che in quel periodo invece credevano a un cambiamento, cioè l'idea era proprio di immaginare un nuovo futuro, un nuovo mondo possibile, come ci dicevamo nel 2001. È stato veramente una grossa, un momento di grande scontro proprio intellettuale per molti, è stato un momento anche di depressione per altri, ma anche è stato un momento di resistenza per molti altri e anche di reinvenzione di certi immaginari, quindi pensare che cosa possiamo fare dopo questa grossa oppressione che tutti abbiamo vissuto, che comunque ha distrutto tutta una serie di esperienze, di ideali e purtroppo portato anche alla morte di Carlo Giuliani, come sapete. E in particolare, almeno nel mio piccolo, io ho cercato di riflettere sì, che cosa fare, che tipo di progetti portare avanti e ho scritto poi due libri che vedete dietro di me. Uno era Networking, la rete come arte, che si trova tuttora online, si può scaricare liberamente dalla rete. A sua volta era pubblicato da Costa e Nola, che è una casa editrice che comunque è nata qui a Genova. E in questo libro raccontavo un po' in che modo l'arte, l'attivismo e la tecnologia sono connesse e in che modo è possibile imparare dalla tecnologia per creare arte. Ma poi il secondo libro, per Network Disruption, che è stato poi anche il libro scritto in Danimarca successivamente, riflettevo proprio in che modo possiamo immaginare delle forme di opposizione che non sono necessariamente frontali, perché comunque sappiamo che quello che è successo qui a Genova è stata anche una trappola. Purtroppo ci si è trovati in una città chiusa, senza via d'uscita, e in qualche modo la polizia, le forze dell'ordine, i carabinieri si sono sentiti legittimati di opprimere un movimento che in quel momento non poteva andare altrove perché la città era stata chiusa. E quindi la questione è in che modo possiamo immaginarci nuove pratiche artistiche e politiche che non sono semplicemente uno scontro frontale, ma che magari inventano nuove strategie, nuove tattiche che sono più subliminali, che sono più difficili da riconoscere e che comunque rappresentano anche quello che poi è la tecnologia, che è un flusso di dati e che quindi in questo senso è molto più difficile da individuare, interrompere e opprimere. E, per cui dietro di me vedete questo grafico, che poi è anche un simbolo che mi sono inventata, che è un disruptive feedback loop, quindi un feedback loop della disruption, che dice che comunque ci ritroviamo sempre in questo ciclo continuo di oppressione, di critica, di resistenza, di oppressione, se in qualche modo non finisce mai. E quindi come riusciamo a interrompere questo ciclo che poi ci fa in qualche modo continuare anche a dare linfa a un sistema che in qualche modo vogliamo anche cambiare. E vedete che all'interno ci stanno dei soggetti attivi, che possono essere gli artisti, gli attivisti, gli hacker, quanti whistleblowers, di cui poi vi racconterò. E l'idea è appunto cercare di trovare delle tattiche e strategie che vengono dall'interno dei sistemi, non dall'esterno, ma che cercano invece di capire la logica di questo sistema, che può essere comunque un sistema aperto che ha a che fare con la tecnologia, la politica, l'economia, la società, ma che cercano di capire come, avendo poi studiato la logica di questi sistemi, è possibile trovare delle tattiche, delle strategie per creare una critica all'interno che comunque va un po' oltre questo loop in cui ci si trova intrappolati. E quindi da qui nasce il Disruption Network Lab. Il nostro motto, se vogliamo, è Exposing Systems of Power and Injustice, che vuol dire denunciare sistemi di potere e ingiustizie, e l'idea è proprio crearsi questo tipo di domande: come possiamo denunciare queste forme di potere, queste ingiustizie, avendo a cuore l'analisi di questi sistemi e di queste forme di potere. E com'è possibile fare questa cosa anche dal punto di vista artistico. E quindi qui iniziamo infatti con questo tipo di storia, e dietro di me vedete una persona che non esiste ma è esistita in tante pratiche artistiche già dagli anni 90 e fino al 1999, che si chiamava Luther Bliss. Luther Bliss era una identità multipla che tutti potevano in qualche modo fare propria. E l'idea era appunto quella di diventare in qualche modo pervasivi e subliminali e cercare di riflettere sulle logiche, per esempio, mediatiche, le logiche culturali e politiche, ma soprattutto mediatiche. Questo era quello che Luther Bliss cercava di fare. E quindi da qui iniziano diverse strategie anche divertenti in cui, per esempio, si diffondeva una notizia che sembrava vera, ma poi che dopo diventava falsa quando i vari giornalisti cercavano di rivelare chi aveva diffuso questa notizia. E adesso purtroppo ci troviamo in una situazione in cui le fake news hanno una connotazione completamente di destra, ma invece a suo tempo l'idea di lavorare attivamente sulla comunicazione voleva far dimostrare invece che a livello mediatico spesso non si guardavano nemmeno le fonti, e quindi c'era un sacco di notizie che circolavano, che potevano circolare senza che qualcuno si rendesse conto che le avesse prima di tutto create. E Luther Bliss, siccome aveva questa strategia pervasiva attraverso diverse persone che avevano la stessa identità appunto di Luther Bliss, dimostravano che invece i media spesso non funzionavano, come per esempio inventandosi personaggi che che non esistevano, che poi commettevano certe azioni che dovevano, che rivelavano anche queste falle di sistemi mediatici, eccetera, eccetera. E voglio citare Luther Pierce, perché comunque è stato un momento proprio di riflessione critica a suo tempo, negli anni 90, di come funzionavano i media, come funzionava l'arte, come funzionavano tutti questi sistemi, e allo stesso tempo anche di andare contro il concetto di autore unico, di come anche l'arte, anche la tecnologia, perché molti dei Peter Priest poi successivamente sono entrati anche nel discorso tecnologico, poteva essere rappresentata in maniera aperta e attraverso delle pratiche che in qualche modo venivano distribuite in diversi settori della società. E poi questo tipo di forma mentis è stata in futuro adoperata attraverso le pratiche di Anonymous, che non so se conoscete, ma diciamo che anche se non c'è questo link diretto, perché comunque Luther Brissett è nato in Italia, Anonymous invece è stato un movimento internazionale, neanche proprio un movimento perché non si identificavano come movimento, però l'idea in quel caso anche era quella di denunciare forme di sistema che non funzionavano proprio bene, come all'inizio c'è stata un'operazione di critica contro Scientology, e poi invece i vari Anonymous spesso comparivano in maniera anche piuttosto subliminale nei media, attraverso YouTube, eccetera, eccetera, e lanciavano degli appelli oppure lanciavano dei comunicati per far capire che c'era un'azione in corso che stava denunciando qualcosa, oppure stava facendo vedere che i sistemi di sicurezza anche di agenzie governative molto forti non funzionavano, perché ovviamente dietro Anonymous c'era un sacco di persone che avevano conoscenza della tecnologia, riuscivano a capire come i sistemi funzionavano, anche a entrare dentro questi sistemi, ma non per distruggerli, ma per far capire che per esempio i dati delle persone non erano adeguatamente protetti, e che quindi facevano capire anche agenzie di alto livello di sicurezza che dovevano cambiare la propria politica. E racconto questo perché è molto interessante, perché come vedete non si tratta di un'operazione politica che viene identificata attraverso persone che sono identificabili, ma sono persone che rappresentano un collettivo fluido, perché utilizzano poi uno pseudonimo che potrebbe essere Luther Priest, o come potrebbe essere un nome collettivo come Anonymous. E questa è una strategia interessante, perché comunque sappiamo anche che è una forza non essere identificabili quando si fanno un certo tipo di azioni, e soprattutto se si fanno azioni che vogliono denunciare alcuni poteri che sono molto più forti di noi, scardinare proprio l'azione repressiva contro l'individuo è una tattica, una strategia che ha una sua forza. E poi, se vogliamo allargare il discorso, è anche una tattica e strategia che ha un impatto artistico, perché comunque nel lavorare su come funziona la comunicazione, come funzionano i media, come possiamo costruire un'identità collettiva, come possiamo creare un processo che poi nasce da alcuni e si apre a tanti, queste sono tutte domande che poi sono anche fondamentali nel panorama artistico, e quindi spesso questi link non sono poi così divisi come si può pensare. E infatti qui vi racconto perché uno dei temi che a me interessa molto è l'arte come prova, diciamo, come denuncia. In Italia è molto difficile tradurre art as evidence, perché anche tutti i vari significati di evidence hanno un po' questo retroscena poliziesco, però insomma tradotto in italiano significa l'arte che cerca di denunciare dei fatti, e lo fa attraverso una pratica anche di investigazione, che potremmo definire una pratica anche di ricerca delle fonti o di ricerca dei messaggi che sono spesso anche non semplicemente accessibili per un pubblico. E questo tipo di approccio ovviamente lo dobbiamo a diverse pratiche che nascono già più di 10 anni fa, e sicuramente qui va citato il lavoro di Wikileaks, che non so se tutti conoscono, probabilmente sì. Wikileaks ha rivoluzionato comunque il modo di fare il giornalismo, il modo di creare un'informazione, anche di lavorare con le fonti dell'informazione. È stato un gruppo di lavoro fondamentale fondato da Julian Assange, e comunque molte persone ci hanno lavorato all'interno, ci lavorano tuttora, e l'idea è stata quella comunque di lavorare anche con il concetto delle leaks, quindi con il fatto di ottenere delle fonti, dei dati da alcune fonti, e molto spesso questi dati sono anche riservati, e pubblicarli per renderli accessibili al pubblico, appunto nella piattaforma di Wikileaks. E questa è stata un'operazione fondamentale, perché ha aperto e rivoluzionato proprio la maniera di relazionarsi con le fonti di informazione e anche di renderla accessibile liberamente. Poi è chiaro che ci sono un sacco di problemi, perché qui c'è il discorso di protezione delle fonti, di capire come si lavora su certe tematiche, e anche di capire in che modo bisogna proteggere queste fonti. Purtroppo, come molti sanno, Julian Assange, che è stato il fondatore di Wikileaks, adesso si trova in prigione, è in prigione da 4 anni a Londra, dopo che è stato per parecchi anni in qualche modo intrappolato nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, e il problema è che questo crea un grosso interrogativo anche rispetto alle persone che fanno questo lavoro, perché di fatto Julian Assange ha cercato di diffondere liberamente un certo tipo di informazione, però essendo dei documenti considerati riservati, a livello legale purtroppo ci sono ancora dei forti limiti per capire questo genere di operazioni, anche delle forme molto oppressive di condanna. E a livello statunitense si utilizza quello che il cosiddetto Espionage Act, e quindi Julian Assange è stato accusato di spionaggio, anche se effettivamente non è stato proprio un caso a livello legale. Però purtroppo questo è quello che accade non soltanto per Julian Assange, ma anche per molti whistleblowers, e qui parliamo di questo. Vi spiego molto semplicemente e brevemente chi sono i whistleblowers, che è un termine in italiano, sinceramente non c'è ancora secondo me una traduzione adeguata, perché si può leggere informatore, che però non ha senso, perché sembra qualcuno che informa rispetto a un tema, e anche qui c'è una connotazione un po' poliziesca. Oppure l'idea del whistleblowing è letteralmente una persona che suona il fischietto, che però è tradotto in italiano abbastanza strano, ma di fatto vi rappresenta molto chiaramente qual è l'azione, cioè è una persona che nota che si sta facendo un'attività, se vogliamo, illecita, oppure una forma di abuso, o un'azione che poi andrà a creare dei problemi dal punto di vista del bene pubblico, e quindi decide di denunciare questo fatto. E molto spesso whistleblowers sono persone che stanno all'interno dei sistemi, quindi per esempio lavorano in un posto di lavoro, oppure lavorano anche in grosse agenzie di intelligence, come per esempio l'Agenzia di Sicurezza Nazionale, come nel caso di Edward Snowden, che ha voluto denunciare le forme di sorveglianza a livello globale da parte degli Stati Uniti e non solo. Ma quindi il whistleblower può essere una persona che sta in un piccolissimo posto di lavoro, o uno che lavora a livelli molto alti dei sistemi. Però la forma mentis è la stessa. Cioè, l'idea di una persona è il testimone di un qualcosa che può anche avere esperienza attraverso il proprio lavoro, e poi decide di denunciare questo tipo di operazioni che spesso non sono fatte per il bene pubblico, non sono neanche a conoscenza della società civile, che in qualche modo vanno denunciate. Questo è stato il caso anche di Chelsea Manning, che prima si chiamava Bradley Manning, e quando ancora si chiamava Bradley Manning, quindi prima di fare la cosiddetta gender transitioning, aveva fornito a Wikileaks alcune informazioni che riguardavano la guerra in Iraq, E quindi è stata un'operazione che rinuncia molto importante, soprattutto per la diffusione di un video che si chiamava Collateral World, che faceva vedere come degli elicotteri statunitensi hanno ucciso in un cosiddetto attacco dall'alto anche dei giornalisti della Reuters insieme a delle persone che secondo loro erano presunti sospetti, e poi invece si è rivelato completamente un attacco errato. Chelsea Manning ha deciso di denunciare questa cosa dando il video insieme a molti altri dati, i cosiddetti anche gli Afghan Logs eccetera eccetera, a WikiLeaks. Ovviamente all'inizio l'ha fatta a livello anonimo, però purtroppo poi è stata scoperta e anche lei è finita in prigione. Poi per fortuna la sua condanna di 35 anni si è ridotta a 7 e adesso è felicemente libera, però anche questo ci fa capire l'importanza di un certo tipo di azioni che purtroppo a livello legale sono ancora oppresse molto strettamente. E noi qui ci vedete a Transmediale, che è uno dei festival di arte e cultura digitale più importanti a livello europeo. Ho lavorato in questo festival per 3 anni e qui ho portato il discorso del whistleblowing all'interno di questo festival di arte e cultura digitale. Qui in questo panel mi trovo insieme a Trevor Kaebling, Jacob Applebaum e Laura Poitras. E Laura Poitras è una persona molto importante in questo discorso del whistleblowing, perché è stata la persona insieme a Glenn Greenwald, che è Edward Snowden che vedete dietro di me, ha contattato solo per denunciare le forme di sorveglianza a livello globale dell'Agenzia di Sicurezza Nazionale Statunitense. E c'è un film molto bello che vi consiglio, che tra l'altro ha vinto anche l'Oscar, che si chiama Citizen Four, che è appunto la storia di Edward Snowden, e il film è di Laura Poitras. Quando noi stavamo facendo quel panel, stavamo ancora costruendo questo film, e insieme abbiamo riflettuto sul cosiddetto tema dell'arte, come ho detto, art as evidence, quindi l'arte come una forma di rivelazione di informazioni che vanno denunciate. Tutto il panel propediale era proprio su questi temi, in che modo l'arte può essere funzionale anche a far capire meglio la società alle persone. E vi faccio un esempio concreto. Qui per esempio vedete uno dei lavori di Trevor Kaebling, che è un artista americano, ancora vive a New York. Le sue opere sono molto belle perché sono opere di indagine fatte attraverso diversi media, in questo caso la fotografia, e lui utilizza degli obiettivi molto particolari che gli permettono di vedere a distanza delle informazioni che non sono facilmente accessibili. Quindi in questo caso mi sembra un bellissimo tramonto. Invece se cercate di andare molto vicini e aumentare la risoluzione, vedete che in questo bellissimo tramonto si trovano dei dubbi che non sono visibili, ma sono parte della foto. E quindi questi droni sono anche elementi, come abbiamo visto, che possono essere utilizzati per sorveglianza, per uccidere persone e per commettere appunto purtroppo anche dei reati dal punto di vista bellico. E cosa ci dicono le opere di Tremor? Che, e questo si collega benissimo con l'idea di questo spazio, quindi dello spazio vuoto, dello spazio pieno, del fatto che questo spazio è già pieno, perché comunque in questa foto, cioè nella foto di prima, vediamo che lo spazio sembra vuoto, ma in realtà è pieno perché ci sono i droni. Mentre Trevor lavora su questa invisibilità che poi è visibile attraverso anche la tecnologia, e ci racconta che la realtà ci dà già delle informazioni che noi potremo ottenere, basta avere i sistemi giusti per poterla leggere adeguatamente. E quindi in questa foto vedete per esempio delle basi militari che sono nascoste, che esistono ma stanno nella nostra realtà, però noi non sappiamo dove sono. E invece Trevor cerca di capire anche attraverso tutta l'analisi che fa sul territorio, attraverso la geografia, dove si trovano queste basi, e poi riesce a fare le foto attraverso le sue tecniche fotografiche, che permettono di fare proprio foto a grande distanza e quindi di svelare in qualche modo questo invisibile. Questo tipo di arte è qualcosa poi che ha ispirato la nascita del Disruption Network Lab, che è l'organizzazione che ho fondato a Berlino, che ormai ha 9 anni e che a Berlino va avanti attraverso l'organizzazione di conferenze, la creazione di progetti e anche di meetup, cioè di incontri, di community, di comunità anche dal basso, in cui si discutono questi temi qui. E la prima conferenza in assoluto che abbiamo fatto è la conferenza di nome Drones, e qui anche voglio raccontarvi una storia bella, perché la prima persona che abbiamo invitato in questa conferenza è appunto un whistleblower che si chiama Brandon Bryant. Lui lavorava nell'esercito americano e in particolare lavorava come un sensor operator, un operatore di droni. La cosa interessante, ma anche molto triste, è che molte delle attività belliche adesso sono fatte a distanza. Quindi quando per esempio ci sono dei droni che volano nel cielo, in qualche modo poi creano un certo tipo di target bellici, la persona che opera questi droni si trova in una base che è molto lontana, come per esempio in Nevada, negli Stati Uniti. E le persone che decidono poi di premere il pulsante sono persone anche molto giovani che si trovano a lavorare in questo tipo di posti, non essendo nel territorio come i soldati semplici. E da lì si scaturisce tutta una serie di problemi, non soltanto perché la gente che comunque non è abbastanza esperta per trovarsi a affrontare un discorso della guerra, ma anche perché vivono questa guerra a distanza, e in qualche modo è una guerra digitalizzata, perché loro cercano di seguire il target attraverso le videocamere dei droni, che sono comunque videocamere anche di sorveglianza, e poi decidono in qualche modo di premere questo pulsante e capire qual è il target che gli viene in qualche modo comunicato. Quindi spesso non decidono neanche loro quali sono le persone da uccidere. E immaginate che la tecnologia non è sempre così precisa, anche se te lo dicono, e le importazioni avvengono con molta distanza e spesso si uccidono anche gli obiettivi tagliati. Quindi lui ha denunciato tutto questo e lo ha fatto proprio attraverso un'opera di whistleblower, cioè raccontando alle persone che cosa succede dietro le quinte anche di una guerra a distanza. E per me è stato un incontro rivelatore, perché comunque, come vi ho detto, venivo dalla scena arte, attivista, non avevo mai incontrato una persona del genere, cioè che comunque fa parte di un mondo completamente diverso, anzi, se vogliamo, queste persone erano i nostri cosiddetti nemici, cioè li incontresti e non vorresti neanche mai incontrarli. E invece l'ho incontrato e lì ho capito che alla fine ci sono un certo tipo di prospettive che in qualche modo ti uniscono anche alle persone che teoricamente fanno delle cose che sono veramente orribili, però poi quando decidono di cambiare opinione, decidono di parlare, di denunciare, si crea anche un'unione di pensiero e poi, se vogliamo, l'azione di denuncia diventa collettiva e quindi si ha un obiettivo comune. E questo mi ha fatto riflettere molto, perché alla fine mi ha fatto anche pensare che ci sono un sacco di contraddizioni nella vita e purtroppo si è vittime di molti sistemi da una parte e dall'altra, e in qualche modo si è anche parte di un ingranaggio che bisogna denunciare. Per cui ho imparato molto anche da Brandon e ci siamo ritrovati in discussioni in cui effettivamente mi ha fatto riflettere molto, e ha fatto anche riflettere molto tante persone a Berlino che hanno imparato da lui come funzionano certi sistemi bellici, in che modo si potrebbero cambiare le cose, che cosa va denunciato, e ovviamente lui stesso non è che se la vive molto bene, cioè è una persona che ha continuamente al momento anche il cosiddetto PTSD, cioè come tante persone che poi si trovano ad andare in guerra. E da questa esperienza del Disruption Lab, in cui abbiamo unito dialogo con una casa editrice, spero che qualcosa accada. Ma questo libro, che si può scaricare anche liberamente perché esiste in PDF e EPUB, lo trovate anche accessibile. Lì abbiamo messo delle piccole card che potete accedere anche con il QR code del vostro telefono e potete scaricarvi questo libro. E perché questo libro è importante? Perché comunque non riguarda soltanto questo drawing, ma riguarda anche le pratiche di arte, le pratiche di attivismo e, come ho detto, tutta questa idea di cercare di ripensare i sistemi dall'interno. E quindi in che modo si crea questo link fra un whistleblower, un artista, un hacker, un attivista, in che modo questa battaglia diventa comune per cercare di capire meglio questi sistemi e cercare di trasformarli. Quindi dietro di me vedete l'indice in cui insomma, ci sono 6 capitoli, ognuno si sviluppa attraverso un punto di vista diverso. All'inizio ci sono appunto i whistleblowers che raccontano perché hanno deciso di diventare whistleblowers, e sono persone che hanno lavorato alla CIA, oppure la madre di whistleblowers, come la mamma di Reality Win che lavorava alla National Security Agency, persone che comunque lavoravano alla MI5, quindi la cosiddetta CIA dell'Inghilterra, e che quindi raccontano perché noi abbiamo deciso di fare questa cosa. E poi il libro si sviluppa in un percorso che è quasi un cut-up, quindi ognuno può leggere una parte che vuole, e si racconta anche in che modo l'arte contribuisce al whistleblowing e in che modo il whistleblowing contribuisce all'arte. Quindi per esempio c'è un'intervista con Laura Poitras, la regista del film di Snowden, con Trevor Craven, e poi i capitoli si sviluppano attraverso interviste con giornalisti investigativi, con attivisti, con hacker, eccetera, eccetera. E in particolare uno dei capitoli che vi consiglio, perché siamo qui al MAI, è proprio quello sulla case evidence, quindi come detto c'è non solo l'intervista con Laura Poitras e Trevor Craven, ma anche con Robert Trafford, che fa parte di questo gruppo che sta sia a Londra che a Berlino, che si chiama Forensic Architecture, e loro creano una sorta di analisi forense attraverso diversi software 3D, che cercano di ricostruire un certo tipo di azioni e situazioni in cui c'è stata una vittima. Quindi questo è molto utile per processi legali, ma anche molto utile per capire come funziona la tecnologia e in che modo, creando una scena da diversi punti di vista, è possibile poi capire effettivamente come sono successe certe cose. Quindi per esempio loro hanno fatto un sacco di analisi di che cosa succede durante sparatorie o situazioni ai confini, come i migranti vengono respinti nei confini europei. È veramente interessante quello che fanno, quindi vi consiglio di leggere. E poi un altro capitolo che mi sta molto a cuore è quello che si chiama Network Exposed, in particolare il discorso di Lisa Ling e Sean Westmoreland. Loro due sono due altri whistleblowers che appartenevano anche loro all'esercito statunitense, in particolare Lisa Ling al programma di sorveglianza dei droni. E sono molto interessanti perché hanno creato questo concetto che si chiama The Kill Cloud, cioè la cloud che uccide, che suona molto strano anche questo in italiano, però l'idea è quella di immaginare e pensare come funziona adesso il cosiddetto sistema bellico. Questi sono temi molto attuali, perché purtroppo, come sappiamo, adesso abbiamo una guerra in Europa. E Lisa e Sean analizzano questa idea che la cloud, appunto quello che riempie, no, gli spazi, è anche un qualcosa che viene utilizzato durante una guerra, integrando sistemi come per esempio satellitari, GPS, anche quello che usiamo con i nostri telefonini, oppure forme di sorveglianza attraverso i droni, il cosiddetto Internet of Things. E quindi tutta questa massa integrata di dati in qualche modo permette anche di identificare i target molto meglio, e quindi loro per esempio denunciano nel loro pezzo del libro in che modo anche errori sbagliati e uccidono soprattutto nel Medio Oriente le persone che non dovrebbero essere uccise. Quindi vi consiglio di leggere questo capitolo, c'è anche un capitolo di Joana Moll, che è una brevissima artista spagnola, che racconta per esempio anche in che modo i dati sono nascosti dietro le nostre interfacce, come per esempio utilizzando Amazon. Ci sono tutta una serie di strategie che noi non vediamo, che però ci permettono di essere tracciati, in qualche modo monitorati, perché poi i nostri dati vengono utilizzati per venderli nel mercato, appunto per strategie di pubblicità e advertisement. Quindi ci sono un sacco di analisi anche interessanti sulla tecnologia che ti fanno capire in che modo tutto questo, questi elementi nascosti che noi non vediamo esistono e in qualche modo vanno rivelati. E vorrei concludere con due conferenze che abbiamo fatto nel Disruption Network Lab quest'anno, cioè una che abbiamo appena fatto, l'altra che faremo. La conferenza che abbiamo appena fatto a fine marzo si chiamava Smart Prisons e quindi si ricollega anche a questi temi, e in questa conferenza abbiamo analizzato in che modo l'intelligenza artificiale da una parte può essere utilizzata anche per operazioni interessanti come vi racconteranno qui al MAI, anche per capire appunto come questo spazio è pieno e come per esempio anche certi dati possono diventare proprietà dei cittadini, ma altre volte invece non si ha la possibilità di entrare in questo percorso e quindi si è in qualche modo oggetto di un certo tipo di sorveglianza, di tracciamento e monitoraggio. Purtroppo la tecnologia non viene sempre usata nella maniera giusta, quindi questo succede spesso con le persone più vulnerabili, come per esempio la gente che sta in prigione, i migranti che stanno ai confini, e anche i dissidenti, come abbiamo visto con Julian Assange. E qui mi piace citare questo, spero che Carlo mi perdonerà, spero che insomma vada bene, perché voglio ritornare al discorso iniziale. Per me è stato molto importante invitare Carlo Bachnit insieme a Dan Quillan, che è un teorico inglese che purtroppo si trovava alla Diaz, è stato portato a Bolzaneto durante le giornate di Genova, e anche un attivista NF che si trova appunto nella scuola Diaz. Insieme abbiamo ricordato dopo 20 anni quello che è successo a Genova, e in particolare Carlo ci ha anche raccontato in che modo la segreteria legale qui a Genova ha fatto un grande lavoro di archivio per aiutare gli avvocati durante i processi che sapete sono avvenuti qua per 10 anni, non solo qui ma insomma anche in altre parti d'Italia. E sono contenta perché comunque penso che sia anche il momento in cui Carlo ha potuto raccontare al pubblico inglese o straniero, tedesco, quello che è successo qui a Genova. Infatti noi abbiamo sempre le nostre conferenze in inglese, quindi il suo discorso è stato tradotto in inglese, si trova anche online in inglese, e abbiamo considerato molto importante che non si dimentichi di quello che è successo qui, e che comunque in un discorso di riflessione anche sulla tecnologia, le forme di sorveglianza, tracciamento, monitoraggio, si rifletta anche sul fatto che certe cose non succedono solo adesso, ma sono successe anche 20 anni fa. Però comunque c'è stata un'opera di resistenza, e quindi dal basso si è riusciti a trovare delle strategie, anche forensi, utilizzando questo montaggio a 4 quadranti per poter salvare degli attivisti. E quindi abbiamo raccontato questa cosa. Se vi interessa potete seguirvi la conferenza. E poi la conferenza che faremo dopo, quindi se vi va di farvi un salto a Berlino, in ogni caso siamo sempre su streaming, quindi ci potete seguire a distanza, è la conferenza Artivism, e qui racconteremo in che modo l'arte si ricollega all'attivismo, in che modo è possibile immaginare l'arte come una fonte anche di critica attiva per immaginare nuove strategie anche di riflessione politica all'interno di sistemi che vanno capiti, vanno in qualche modo anche hackerati se vuoi a livello culturale e artistico. E avevo tutta una serie di ospiti interessanti, di alcuni panel, qui vedete dietro di me per esempio Laurie Lowe, che ha fatto anche parte di Anonymous, l'intelligenza artificiale, che fa dei video anche molto belli dal punto di vista artistico, si parlerà anche dell'investigazione artistica che lei, l'intervista che ha fatto a Ahmed Mansour, che è un giornalista che al momento si trova in prigione negli Emirati Arabi, purtroppo. E poi avremo un'altra serie di panel che comunque riflettono sulle nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, le forme appunto di arte come processo che aiuta a capire meglio la tecnologia ma anche a capire i sistemi che ci circondano, fino a cui vorrei citare la bellissima opera di Steve Disposter, che è un gruppo che lavora tra l'Italia, la Francia e l'Inghilterra, che creiamo questo sito che si chiama stilldisposter.org, che ti permette di scaricare liberamente dei poster che hanno a che fare con diverse campagne politiche e poterli mettere dove uno vuole, e allo stesso tempo fanno un ragionamento molto bello sul copyright, sull'apertura del copyright, e ragionano anche su come funziona la pubblicità nei cosiddetti cartelloni pubblicitari, quindi alcune volte sostituiscono i cartelloni pubblicitari cambiando il significato del messaggio pubblicitario o qualcosa di politico, oppure creano dei nuovi cartelloni pubblicitari portando avanti delle storie che sono interessanti perché sono comunque di denuncia su fatti politici attuali che devono essere ricordati. E con questo concludo e vi ricordo appunto, se volete scaricare il libro, ringrazio Virginia Federico per avermi invitato, e se volete seguirci al Disruption Network Lab potete andare online su disruptionlab.org.